Si ballava su qualunque aria, come si poteva o non si poteva. Robert, Maurice e Samy potevano ben poco. I Benedetti potevano, e anche Jeannot Nussbaum. Era la rivincita dei non lettori di libri. Zaza, Josette e le loro compagne del corso integrativo volteggiavano. Era il loro primo ballo. Miriam non volteggiava. Appena aveva visto arrivare il fonografo, era corsa a casa per mettersi alla caviglia una benda elastica Velpeau per una storta che non aveva e che spiegò di essersi fatta proprio mentre correva a casa. Preferiva parlare con Samy e guardare Samy e soffrire nel vedere Samy che tentava di ballare con Zaza, la quale ballava con tutti e anche con Alex quando lui aveva tempo. Perché aveva molto da fare, Alex. Come tutti i Masters of Ceremonies, come diceva See you next week. Era stato lui a trasformare il laboratorio in salone delle feste. Prima di tutto aveva messo al sicuro i manichini, le stoffe e tutto quello che era deteriorabile e, per evitare i vari piani, aveva deposto tutto dagli stern. Solo allora la macchina per cucire era stata spinta in cucina e i tavoli da lavoro erano stati messi davanti ai caminetti. Agli occhi di Sonia e di Olga, che guardavano fare, la stanza aveva quasi ritrovato l'aspetto che aveva il giorno degli addii dei Bonnet. Sul lenzuolo, che serviva da tovaglia, le offerte si accumulavano via via che arrivava la gente. I panini imburrati, il pollo freddo a pezzi, le fette di roast beef, i cetriolini, due crostate, formaggi di capra, confetti, ciliegie, insalata di patate, pomodori, aringhe, un sorbetto al lampone, cioccolatini ripieni e biscotti Lou erano disposti su un vasellame scompagnato, tra cui si riconoscevano i vassoi, i piatti e le tazze e vasi dalle cucine Clément, Gutmann, Roginski, Nussbaum, Stern e perfino Löwenthal. Anche i bicchieri, senza contare quelli che l'Alverniata aveva prestato insieme alla botticella di vino bianco del suo paese che aveva regalato e che troneggiava tra le bottiglie di champagne, di spumante, di cinzano, di beer, di Dubonnet, di sidro, di vodka e delle belle bottigliette rotonde di succo di frutta che Alex aveva spillato al gestore del Pam Pam all'angolo della Rue Lincoln prima di lasciare gli Champs-Élysées. Alex entrava, usciva, ballava un po', stappava bottiglie, cambiava i dischi e sciacquava i bicchieri come se non avesse fatto altro in vita sua. D'altro canto, lo faceva così bene e così allegramente perché lo aveva fatto molto tempo. Lo ringiovaniva di 10 anni. Ogni tanto saliva al secondo piano dove a poco si erano rifugiati i genitori e, dopo aver sperimentato timidamente il ballo, ora parlavano tra di loro delle gioie e delle speranze che gli procuravano i rispettivi figli, sia che fossero portati ai lavori manuali o intellettuali, il che faceva piacere a tutti e non dispiaceva a nessuno. Alex dava notizie dei figli, rassicurava le madri delle ragazze e i padri dei ragazzi, poi scendeva di nuovo a sorvegliare i miscugli di bevande. La signora Löwenthal aveva fatto capolino in casa Bonnet, dove aveva lasciato il signor Löwenthal, al quale non dispiaceva veder volteggiare la gioventù e girare la manovella del fonografo, ed era andata a fare un altro capolino dai Gutmann. Dato che aveva prestato la sua grande insalatiera, beh, non la si poteva escludere del tutto dai festeggiamenti. Era il suo primo ritorno in seno a una comunità con la quale peraltro non aveva molto da spartire, non aveva mai conosciuto le gioie della maternità e aveva appena conosciuto l'amarezza della sconfitta. In realtà c'era voluta l'insalatiera perché si riallacciassero delle relazioni interrotte dalle elezioni. Nessuno quella sera ebbe non di meno la crudeltà di chiederle se fosse stata la frequentazione dei diamanti per i quali lavorava che aveva fatto del signor Löwenthal un elettore sfortunato, anche se era quello che si diceva nello stabile, specialmente al pian terreno. Ma poiché, in un momento di silenzio, la signora Löwenthal aveva sospirato, stasera sarebbe fiera del suo piccolo Maurice, la signora Lutz. Un'altra verità attraversò la stanza da pranzo Gutmann, come passa un angelo del passato. Non erano stati dunque i diamanti, bensì i Clément stessi, quegli imperdonabili e inescusabili sostituti della signora Lutz che avevano spinto il signor Löwenthal a votare come aveva fatto. Allora, del mio Samy e di Robert non sarebbe stata fiera la signora Lutz? Chiese malizioso il signor Nussbaum. Che cosa ne è stato a proposito dei gemelli Bonnet? Aveva ripreso Ginette Clément altrettanto maliziosa. Il mese scorso stavano molto, molto bene, rispose la signora Löwenthal, alzandosi e aggiungendo che per l'insalatiera non c'era fretta. Domani, domani, se casomai quei piccoli selvaggi non gliel'avessero rotta. Ed era risalita in casa. Ora si sapeva la vera verità. Il signor Löwenthal aveva votato come il signor Bonnet, semplicemente perché la signora Löwenthal non si era mai rimessa dal trauma cranico del signor Bonnet, quello del 6 febbraio di 2 anni prima. E poiché veniva evocato il 6 febbraio, fatalmente Felix evocò il 12, il solo di tutti quei giorni di febbraio che contasse veramente, quello che aveva sigillato l'unione sacra contro il marciume politicante. E come era ovvio, Felix riparlò delle elezioni e le signore andarono nella stanza da pranzo Roginski, anche Ginette. Loro avevano voglia di continuare a parlare dei loro figli e delle radiose promesse che si aprivano davanti a loro, che si sentivano ridere e cantare al piano di sotto, ancor più forte dei collegiali di Rei Ventura. A scorgere per primo il signor Florian fu Maurice. Era appoggiato allo stipite della porta, un po' in disparte, guardava, sorrideva, ma non entrava. Maurice si sentì arrossire e accennò un passo verso il fonografo, ma il signor Florian gli fece un cenno come per dire che non faceva che passare. Per carità, che Maurice non interrompesse la musica, che andasse semmai a raggiungerlo sul pianerottolo. Allora Maurice fischiò le prime note della ballata di Lorelei Hardy. Robert e Samy lo guardarono e, scoprendo a loro volta il signor Florian, piantarono in asso le ragazze con le quali stavano ballicchiando e andarono a raggiungere Maurice dal signor Florian. Distribuendo virili strette di mano, il signor Florian, il maestro, si tolse forse la voglia che probabilmente aveva di abbracciarli come quei figli che non aveva. Volevamo venire domani a trovarla a casa, signore, disse Maurice un po' forte per via di tu va très bien, madame la marchise. Sì, è vero, signore, volevamo venire da lei, confermarono Robert e Samy. Non vuole entrare a... Maurice non osò dire a bere qualcosa? No, figlioli, è stato il caso a farmi restare fino a tardi nel quartiere. Devo tornare a casa, disse il signor Florian, lanciando un'ultima occhiata all'interno. Non sono i benedetti quelli che vedo dimenarsi così sportivamente laggiù in fondo? Chiese. Sì, signore, rispose Maurice, e ci sono anche i Novak. Vuole che vada a chiamarglieli? No, no, caro no, disse il signor Florian dopo una breve esitazione. Non vuole salire dai miei genitori? Sarebbero sicuramente contenti di vederla, propose debolmente Maurice. Un'altra volta, figliolo, un'altra volta. Si chinò e raccolse un pacchetto su un gradino. Tenete. Ve li presterete durante le vacanze scolastiche perché vi ricordo che non avete finito. Non vi dimenticate che siete baccellieri solo a metà, eh? Non lo dimenticate perché io fra poco non sarò più nei paraggi per ricordarvelo. Vado in pensione a casa mia, nel mio paese. Su, ora scappo. Il signor Florian tese il pacchetto. Fu Maurice a prenderlo. Oh, grazie tante, signore, dissero insieme mentre il loro maestro aveva già cominciato a scendere le scale. Forse avremmo dovuto insistere, mormorò Maurice. Oh, non aveva proprio voglia di entrare, disse piuttosto ipocritamente Robert. E poi avrebbe messo fifa agli altri e non ci si sarebbe più divertiti, soggiunse Samy. E se fosse salito, avrebbe messo fifa ai genitori. È meglio così, concluse Maurice. Andremo a trovarlo per ringraziarlo e salutarlo, visto che smamma in campagna. Tastò il contenuto del pacchetto. Sono libri, disse. Gli altri due erano già tornati alle loro ballerine e Maurice spinse la porta della camera per deporvi il pacchetto che non aveva aperto. Sul suo divano, Gino e una ragazzina del corso integrativo, che non sapeva neanche come si chiamasse, si baciavano al chiarore della piccola lampada a fungo di Robert. Oh, scusate, fece Maurice lanciando il pacchetto sul divano di Robert e uscendo precipitosamente. Cercò Zazà con lo sguardo. Era davanti al buffet, in conversazione con Alex che aveva l'aria di stare ad ascoltarla. Avvicinandosi, Maurice scoprì che Zazà si era messa al rossetto. Se l'era messo male, doveva averlo fatto in fretta e furia dopo che i genitori se n'erano andati. Tra le ragazze presenti, cercò quella che aveva prestato il rossetto color ciliegia scuro. In realtà non cercò, lo sapeva. Era la nipote dell'Alverniat. Era venuta con lo zio quando questi aveva portato la botticella ed era rimasta. Nessuno l'aveva mai vista nel quartiere. Aveva almeno 18 o 19 anni, capelli e occhi nerissimi, grossi seni sotto un vestito giallo limone, unghie delle mani laccate d'arancione, gambe un po' grosse, sandali bianchi con dei lacci e tacchi alti, niente calze, unghie dei piedi laccate d'argento e la grossa bocca quasi nera. E subito aveva ballato con Ginot Nussbaum. Poi molto con Gino Benedetti e ora era al buffet con un bicchiere di cinzano in mano, il mignolo alzato, e guardava Alex che la guardava pur con l'aria di ascoltare Zazà. «Viene?» chiese Maurice come se fosse stata la cosa più facile da chiedersi. Lei posò il bicchiere sul tavolo. «Lo riconoscerà, conserva le sue impronte», disse Maurice, come se fosse stata la cosa più facile da dirsi. Lei sorrise. E come se fosse stata la cosa più facile da farsi, Maurice mise delicatamente la mano destra contro la schiena giallo limone, senza appiccicarvela, solo premendo un po' il pollice, come aveva visto fare a Gino, e tenendo il braccio sinistro saldato al corpo, prese il polso destro della ragazza nella mano sinistra, senza stringere troppo neanche quello. Il fonografo suonava un potpourri di Slow di Charlie Kunz e la nipote dell'Alverniat canticchiava tutte le arie con gli occhi socchiusi. Ogni tanto li spalancava e guardava dalla parte di Alex. Maurice si torturava cercando di trovare qualcosa da dirle. Aveva cominciato bene con l'allusione alle impronte di Rossetto lasciate sull'orlo del bicchiere. Non voleva cadere nelle banalità. Non voleva essere pedante. Non voleva neanche essere beota, però. Aveva troppo caldo. La trovava troppo profumata. Gli ricordava i miscugli che li facevano ghignare lui e Robert quando il salotto spogliatoio tornava a essere la loro camera. Era più eccitante immaginare quando sapeva di cocotte, si diceva, che avere la cocotte a portata di mano, mentre oltretutto doveva stare attento a quello che facevano i suoi piedi. Robert sfiorò la coppia muta e fischiettò le prime quattro note della ballata. Maurice verificò che la nipote dell'Alverniat fosse definitivamente perduta nei suoi sogni. Girò la testa verso Robert e alzò gli occhi al cielo. Il Charlie Kunz Medley, come diceva l'etichetta, non la finiva più. E fu a quel punto che si smise di sentirlo per ascoltare, in provenienza dalle scale, una chitarra, un banjo e delle voci che cantavano. Erano Gromov, Barsky e uno sconosciuto. E tutti ripresero la canzone perché era un'aria che tutti conoscevano, che si cantava dappertutto da qualche settimana. Era Allons au-devant de la vie, ma i tre nuovi arrivati la cantavano in russo perché era una canzone russa, una canzone che attirò i vecchi sul pianerottolo del secondo piano. Erano più delle 10, ma era ancora molto presto e la festa allora riprese fiato. Mentre cercava la seconda scarpa, l'indomani, verso mezzogiorno, Maurice scoprì il pacchetto del signor Florian sotto il letto di Robert che dormiva. Scoprì anche che il laboratorio era in perfetto ordine, come se il giorno prima non ci fosse stato niente. Dovevano essere state ben attente le madri per non svegliare i figli mentre riordinavano e dovevano essere ben stanchi i figli per aver dormito tanto a lungo. Tra l'altro, dovevano avere ben sbevazzato per non ricordare affatto quando e come erano finalmente andati a letto. L'ultimo ricordo di Maurice erano Barsky, Gromov e il suonatore di banjo che cantavano Je sais que vous êtes jolie e suo padre e sua madre che stavano ballando. Il rumore della carta svegliò Robert. Il primo libro si intitolava Tifone di Joseph Conrad, il secondo era La fortuna dei Rougon di Émile Zola e il terzo La condizione umana di André Malraux. Non glielo diremo. Andremo a cambiarlo senza dare nell'occhio, disse Maurice, ripiegando accuratamente la carta della libreria. Ah, ho la testa pesante, gemette Robert, che capiva ora il vero senso della locuzione, tanto spesso incontrata nel corso di letture che non avevano niente in comune con quelle regalate dal loro vecchio maestro. Chi l'ha imbarcata la grossa giallo limone? Si informò. Non lo so, ma che zucca si ritrova, esclamò Maurice. Robert non rispose, voltò la testa per non far vedere a Maurice che l'aveva visto arrossire. Ci sa fare Gino con le ragazze, disse Maurice. Per forza, non altro da fare, constatò Robert. Quello e le pulci con il vecchio Nussbaum e Manolo, sicché le occasioni non gli mancano di certo. Anche noi, s'arrischiò Maurice, non avremo altro da fare per 3 mesi. Robert ridacchiò e non rispose niente. Erano state le rispettive madri a metterli a letto verso le 2 del mattino. Contrariamente a quello che pensavano, non senza una certa vanità, non erano così sbronzi come si compiacquero di ripetere tutto il giorno seguente. Erano ebri di emozioni e stanchezza accumulata, non erano sbronzi. Del resto, quella sera nessuno era veramente sbronzo, neanche Barsky. E uno che non era assolutamente sbronzo era Alex, quando verso mezzanotte aveva proposto molto seriamente a Gromov e Barsky di lavorare temporaneamente per la Copé. Per questo era bastato che li vedesse tutti e due insieme nel momento preciso in cui si chinavano sul piatto di biscotti lui. L'associazione di idee può sorprendere, non avrebbe però sorpreso Ginette né la signorina Anita. Gromov e Barsky erano esattamente gli uomini che reclamavano da circa una settimana: un autista e un ricercatore di mercato procacciatore per i due grossi pezzi di brioche che si andavano preparando nella ditta. Avevano prestato molto in quegli ultimi tempi. E non soltanto a Jean Renoir, a Grémillon e a Cavalcanti, ai frequentatori abituali di Cheramie e della Coupole, ma anche a piccole compagnie di dilettanti dalla vocazione educativa che durante gli scioperi avevano prodigato vecchie ballate e cori parlati, tra l'altro diversamente apprezzati. Diventava urgente pensare a incamerare un po' di brioche, ed era per cercarla che Alex pranzava a volte al Fouquet, perché era lì che se ne trovava. Ne aveva perciò portate a casa 2 grosse porzioni. Una si chiamava Le Batelier della Volga, ma paradossalmente non era a quel film che Alex aveva pensato rivolgendosi a Gromov e a Barsky, era a un altro, a quello di cui aveva usato confessare il titolo a Rodriguez solo dopo aver molto insistito sul fatto che la Copé avrebbe più che probabilmente partecipato gratis ai costumi della Marsigliese, subito dopo quelli di Prends ton fusil, Grégoire. Il biscottiere di Nantes, autore di Prends ton fusil, Grégoire, ne era anche lo sponsor esclusivo. Aveva pagato un grosso anticipo poco prima delle elezioni e per un attimo, dalle parti del registratore di cassa del viale Chateaubriand, si era paventato che rinunciasse al suo progetto e si facesse rimborsare rivendicando il caso di forza maggiore l'indomani del 3 maggio e ancor più il 20, quando lo sciopero era diventato generale anche nel cinema. Ma il signor Le Groff teneva al suo progetto. Ci teneva da 10 anni e nessun sovvertimento subalterno l'avrebbe fatto rinunciare a raccontare l'epopea di un antenato fornaio di professione, il quale aveva saputo abbandonare forno e promessa sposa per imbracciare il fucile, con la vergine d'avorio e la borraccia per bere, e andarsene a raggiungere, a rischio della propria vita, i partigiani del signor de Charette. La storia finiva bene per Grégoire, comunque meglio che per il signor de Charette, che non accompagnava fino al calvario finale. Leggermente ferito, salvato perfino da un'imboscata da un soldato della Repubblica, ritrovava la sua donzella, che sposava, riaccendeva il forno e diventava in un certo qual modo il padre fondatore della biscotteria di Nantes e i cui biscotti, pomponette, da allora avevano seguitato a entusiasmare le papille di piccoli e grandi di tutta quanta la Francia e sotto tutti i regimi. Incoraggiato da un amico proprietario di una sala cinematografica a Vannes, il signor Le Goff aveva dunque scritto questa storia di famiglia che considerava come una pietra fornita all'edificio della grande riconciliazione delle regioni. Con suo vivo stupore, nelle lettere inviate al signor Le Goff in risposta all'invio della sua opera, letta naturalmente con profondo interesse, nessun regista aveva l'aria di poter essere disponibile prima di molti anni. Nuovamente incoraggiato dal suo amico proprietario della sala cinematografica a Vannes, che dai programmi diffusi tutte le settimane si era rinsaldato nell'idea che fare un film non è poi la fine del mondo, il signor Le Goff aveva preso la decisione di realizzarlo personalmente. Il caso volle che la signora Le Goff avesse un'amica di collegio, la signora Charlotte Verdon, che aveva 2 figli grandi, i quali vivevano a Parigi ed erano nel cinema. I fratelli Verdon, scoraggiati dal fatto di non poter fare il loro film, quel bel film che si svolgeva in 48 ore, un po' per la strada, un po' in una fabbrica di biciclette, in riva al mare e in un letto dove si amavano 2 adolescenti di oggi, si erano quindi ritrovati promossi al rango di consiglieri tecnici di un biscottiere miliardario sulle cui spiagge avevano fatto dei castelli di sabbia durante la loro prima infanzia, che non avrebbe mai accettato di mettere un soldo nel loro proprio progetto, ma al quale avrebbero fatto sborsare milioni per la preparazione del suo, di cui già profetizzavano che un giorno avrebbe forse visto la luce, ma sicuramente non quella artificiale delle sale buie. Per onestà, in un primo momento avevano cercato di dissuadere il signor Le Goff dal lanciarsi in quell'avventura, ma davanti alla sua accanita testardaggine si erano rassegnati a prendere quel denaro che in ogni modo sarebbe finito nelle tasche di un qualunque imbroglione, il quale forse non avrebbe avuto la generosità di farne profittare gli amici. Assunti come consiglieri, consigliavano. E tra i primi consigli prodigati da quando riscuotevano i loro assegni settimanali compariva quello di occuparsi in primo luogo dei costumi. Per gli attori si sarebbe visto dopo. L'importante erano prima di tutto i costumi. Dal momento che, come avevano spiegato al signor Le Goff, si poteva più facilmente ritoccare un costume bretone per adattarlo alla taglia di questo o quell'attore che ritoccare il fisico di un attore scelto in anticipo e di cui ci si fosse accorti troppo tardi, dopo averlo scritturato, vale a dire un po' pagato, che sotto un cappello rotondo non era più credibile. Come Raimù, ad esempio, al quale il signor Le Goff aveva pensato per un momento per la parte di Grégoire e di cui il suo amico, proprietario di una sala cinematografica a Vannes, gli aveva assicurato che prendeva tutti gli accenti. Per fortuna i fratelli Verdon erano arrivati a tempo. Loro, consiglieri, sconsigliavano formalmente Raimù. Eccellente attore, indubbiamente, buon fornaio, forse, ma assolutamente impossibile come fornaio bretone. Non si dovevano buttare i soldi dalla finestra. No, era meglio che si fidasse di loro. I costumi prima, gli attori poi. E per i costumi un solo indirizzo, quello della cooperativa dei costumisti. Ci avevano degli amici, il signor Le Goff sarebbe stato contento. Il signor Le Goff era soddisfattissimo e i Verdon avevano raramente riso tanto dopo aver passato un anno a farsi rifiutare il loro filmino di giovani autori con un bilancio troppo modesto. L'affare si era concluso al bar del Fouquet, dove Laurent aveva accettato per una volta di comparire incravattato su richiesta di Alex, che ormai conosceva bene il posto. Intascando il grosso assegno del concorrente diretto dei biscotti Lou, il fondatore della cooperativa dei costumisti aveva provato, a onor del vero, un po' di vergogna, l'aveva mandata giù. Poi aveva ascoltato senza ridere Laurent Verdon che parlava di girare all'inizio di settembre. «Saremo pronti?» aveva chiesto il signor Le Goff. «Sempre pronti, signor Le Goff», aveva risposto Laurent facendo il saluto scout. «Perfetto, perfetto», aveva detto il signor Le Goff. «E quando si imbarca con suo fratello?» «Domani all'alba, signor Le Goff». «Prendi la nave per andare in Bretagna?» si era informato Alex, che ormai si aspettava di tutto. Con aria di compassione, Laurent Verdon aveva alzato le spalle e aveva levato verso il soffitto del Fouquet i suoi stupendi occhi verdi. «Galles, Scozia, Irlanda, vecchio mio, viaggio di studio. Come affrontare l'opera senza ritornare alle fonti della nostra celticità?» «È chiaro», aveva ammesso Alex, infilando il naso in quello che rimaneva del suo porto flip. «Non si risparmiano i miei due giovanotti», aveva detto il signor Le Goff, soddisfatto di essere così ben assecondato. Aveva pagato il conto ed era ripartito per Nantes. Alex era tornato alla coupé, aveva posato l'assegno sul tavolo del signor Anselmo e aveva deciso con Ginette di mandare qualcuno a esplorare le soffitte e i conventi di Bretagna in cerca di costumi che erano cambiati di poco dai tempi degli Chouans. Si girasse o no Printemps Fusil Grégoire, nonostante la promessa fatta da Laurent Verdon al Baden Powell di Nantes, era sempre una buona occasione per rinnovare le scorte. Un po' povere di folklore storico, tanto apprezzato in quei tempi di celebrazioni. Era stato detto che bisognava trovare qualcuno, poi nessuno se n'era occupato. Nessuno se n'era occupato perché si era occupati con Le Batelier della Volga, film per il quale si era riscosso un altro assegno e che questa volta si girava sul serio in agosto. Non era stato spedito nessuno a vuotare le soffitte sulle rive del Volga, ma il lavoro di ricerca e di confezione era così impegnativo che nessuno era disponibile per andare a fare ricerche in Bretagna. E Ginette parlava sempre più spesso di questo qualcuno che non si sarebbe mai trovato se non si cercava e del signor Le Gogo che avrebbe ancora telefonato da Nantes. Ne aveva riparlato proprio quella sera, quando Alex aveva deciso di prendere la Citroën per trasportare il fonografo, i dischi e i succhi di frutta. Si arrugginiva in garage la Citroën da quando Lucas se n'era andato e Ginette aveva riparlato anche di un autista. Allora, per via di Ginette, dei biscotti di Nantes, dei sensi unici, fonte di tante sofferenze tra gli Champs-Élysées e Rue de la Mare, per via dei Verdon che Bashki aveva probabilmente perso la speranza di identificare un giorno, di colpo Alex ebbe la rivelazione folgorante che Gromov doveva abbandonare il suo taxi per guidare la Citroën attraverso le ginestre spinose. Con a bordo colui che meglio di ogni altro avrebbe saputo bere un goccio con i bretoni e far aprire alle bretoni i loro armadi più inchiavardati. Dopotutto, la rigatteria era il primo mestiere di Isidore, prima che si innamorasse del cinema. Solo Zazà li aveva sentiti mettersi d'accordo. Anche lei era completamente ubriaca. 48 ore dopo, all'alba, il motore della Citroën si metteva in moto in Rue de la Mare. Sul tetto, saldamente fissati, si potevano vedere una vecchia valigia di cuoio chiodato, costellata di brandelli di etichette, che testimoniavano soggiorni lussuosi in lussuosi alberghi. Un'altra nuovissima di cartone duro, una custodia di chitarra e due zaini, talmente pieni e gonfi che avevano l'aspetto di grossi palloni per una partita di calcio gigante. Davanti alla guida c'era il principe autista con il cineasta Isidora al fianco. Dietro si ammucchiavano come potevano, sul sedile e sulla moquette del pavimento, i tre mezzi baccellieri, Clément, Nussbaum e Gutmann, e le due signorine della famiglia. Sul marciapiede, padri e madri dissero addio ai loro figli e Miriam Goldberg ai suoi amici. Era l'estate del 1936, anche loro andavano a scoprire il mare. A quell'ora, il piroscafo Champlain della Compagnia Generale Transatlantica era già in pieno oceano. Non era ancora spuntato il sole. Il giorno prima, sul ponte, i passeggeri avevano guardato la terra che si allontanava, ma, dato che non avevano nessuno a cui sventolare i loro fazzoletti, Janek e Nicole Roginski erano tornati nella loro cabina di prima classe, ancora prima che fossero scomparse ai loro occhi le scogliere d'Europa. Lo sconosciuto che durante la festa aveva suonato il banjo per accompagnare la chitarra di Gromov e che non aveva detto una parola in tutta la serata, per Alex non era un completo sconosciuto. L'aveva già visto da qualche parte, non sapeva dove. Lo seppe qualche giorno dopo, quando lo rivide, dove l'aveva già visto una prima volta, alla Coupé, semplicemente. Silenziosamente seduto nel vestibolo, sotto il ritratto di Lucien Guitry, stava aspettando. Aspettava il suo amico Valery Inkiginov, al quale la signorina Agnès stava provando gli stracci da barcaiolo per le batelie della Volga, in cui avrebbe recitato una particina. Alex aveva accolto Valery Inkiginov, commosso fino alle lacrime, quando questi era apparso per la prima volta nel vano della porta che gli aveva aperto di persona, talmente aspettava il suo arrivo. Gli altri non avevano capito, non potevano capire. Bisognava essere l'amico di Rodriguez per sapere da dove nascesse l'insolito rispetto con il quale il disinvoltissimo Alex Grandi aveva fatto da guida all'attore straniero attraverso i salotti imbottiti. Non l'avevano mai visto così, Alex, nemmeno per Pierre Richard Wilm o per Vera Corene, Pierre Blanchard e Vanel, venuti il giorno prima a farsi prendere le misure, e che erano invece i protagonisti dei batelier della Volga. Non l'avevano mai visto così, Alex. Ma il fatto è che non avevano neppure visto Valery Inkiginov in Tempête sur l'Asie. Forse l'avevano visto nella Tête d'un homme, in Amok, oppure ne La Bataille, o in un altro coso sul Volga, Volga en feu o en flamme, non ricordavano bene. Era mica male. Aveva un certo stile, era un tipo speciale, esotico, insomma. Ma accoglierlo addirittura come la duchessa d'Uzès, aveva detto la signorina Agnès che dal canto suo gli trovava l'aria più cinese che russa e di conseguenza priva di tutte le attrattive e di tutti i misteri che amava così appassionatamente negli slavi. Più cinese che slavo, più asiatico che cinese. Il siberiano in Kijinov aveva effettivamente dei silenzi, dei sorrisi e delle inclinazioni della testa per ringraziare, degli increspamenti d'occhi da cacciatore di pellicce per stupirsi o divertirsi, e Alex, sedotto, contemplava il discendente di Genghis Khan come l'avevano contemplato e ricontemplato lui e Rodriguez quando erano ancora giovanissimi e i film erano muti. Muti e misteriosi, come lo era in Kijinov, che non raccontava niente, né di Meyerhold, né di Pudovkin, né di Yesenin, il morto, né di Mayakovsky, l'altro morto, che non raccontava niente di prima, tra virgolette, che non raccontava neanche perché c'era stato un prima 1930, né perché c'era quel dopo da allora. Un dopo per il quale oggi doveva provare gli orpelli di un ruolo di quest'ordine che si chiamava Kiro, allo scopo di rendere più facile la classificazione dei costumi che presto sarebbero partiti, ammucchiati in ceste etichettate, parti minori e comparse batelier. Quella prima volta Alex aveva contemplato in Kijinov mentre la signorina Agnes appuntava gli spilli. Forse aveva intravisto l'amico del banjo, ma l'aveva appena guardato. Rivedendolo, sotto il ritratto di Lucien Guitry, l'aveva salutato come un amico per via della festa e aveva detto a Stepan che il suonatore di banjo dell'altra sera era in ditta. E Stepan, che stava lavorando a un collo della pelliccia del colonnello, non c'erano solo dei poveracci nei batelier della Volga, era uscito nel vestibolo per salutare quell'amico di Gromov. Dopotutto, e tra l'altro dopo aver abbondantemente digrignato i denti, aveva poi finito per lasciar partire Zazà con Gromov al volante. L'amico di Valerie in Kijinov non era l'amico intimo di Gromov, era una conoscenza delle corse o piuttosto dei campi da corsa, ma era veramente l'amico di Valerie in Kijinov. L'amico d'infanzia era dello stesso parere, di Irkutsk. La coincidenza parve talmente straordinaria a Stepan che ripeté il nome. Irkutsk? Ah, oh, questa poi? Lo conosce? Disse l'amico di in Kijinov. No, ma conosco qualcuno che è morto vicino a Irkutsk, un ucraino. Ma tanto tempo fa, era nel 1929, precisò Stepan. Nel 1929? Beh, gli avrà evitato di morire di fame in Ucraina, il suo amico ergastolano, disse l'amico di Inkijinov con un sorriso amaro. Ma dov'è mai Irkutsk? Ma in Siberia, signore, rispose l'amico di Inkijinov come se fosse evidente. Stepan non disse niente. Disse soltanto che aveva da fare, riprese il collo del colonnello e pensò alla sera. Si sarebbe riparlato di Valodia al secondo piano, molto tristemente quella volta. E poiché per una volta non sarebbe stato necessario farlo di nascosto ai ragazzi, probabilmente se ne sarebbe parlato per ore. E probabilmente Elia avrebbe anche ritirato fuori la lettera del signor D di Zurigo per rileggerla meglio ora che si sapeva dov'era Irkutsk. E Sonia probabilmente avrebbe detto che Valodia doveva aver fatto delle cose molto brutte per essere morto nella colonia penale. E probabilmente lei ed Elia si sarebbero bisticciati, visto che non c'era bisogno di nascondersi dai figlioli. E dal momento che nessuno al mondo sarebbe mai venuto a dire quello che Valodia aveva fatto di tanto male, non sarebbe stato un gran guadagno. Allora sarebbe rimasta quella storia di carestia di cui nessuno al mondo aveva mai sentito parlare. E Elia sarebbe stato ben capace di scendere dai Clément per chiedere a Félix se era al corrente. E Félix probabilmente avrebbe detto che quella era ancora una delle balle che venivano diritte dai fratelli Mercier, probabilmente. Allora Stepan sarebbe stato costretto a dire che veniva dal suonatore di banjo che era arrivato l'altra sera con Gromov e Félix avrebbe detto che non lo stupiva perché era tanto simpatico Gromov, ma dopo tutto era pur sempre quello che era. E probabilmente Félix avrebbe rimproverato a Ginette di avergli forzato la mano per lasciar partire i figlioli con un principe russo e uno scombinato nativo di Odessa, tanto simpatico anche lui, ma che faceva e diceva la prima cosa che gli passava per la testa, e che beveva troppo. Il che non era sbagliato, ma si sapeva già. Ne avevano parlato tutti abbastanza, discusso abbastanza. Avevano fatto abbastanza la predica ai figlioli, a Gromov e a Barsky, prima di cedere e di lasciarli partire. Allora, a cosa sarebbe servito riparlarne, dal momento che ormai era fatta? A niente, se non di sicuro a sciupare ancora un po' una serata che già si annunciava male. Malissimo, addirittura, come ogni volta che bene o male si finiva col parlare di quel povero Valodia. Era proprio una disgrazia, ma si poteva dire che con quello là non si finiva mai. E Stepan, chino sulle pelli di lontra e di cordiglio di seta nera che guarniva il collo del colonnello dei batelier della Volga, cominciava a chiedersi se fosse tanto urgente e indispensabile riferire quella sera a casa che Irkutsk era una città della Siberia e che erano morti di fame pochi anni prima in quello che veniva comunemente detto il granaio d'Europa. In ogni modo, per Irkutsk si sarebbe ben finito per sapere un giorno o l'altro che era in Siberia e più tardi si fosse saputo meglio sarebbe stato, soprattutto per la reputazione del cugino Valodia. Quanto alla carestia in Ucraina, anche di quella si sarebbe saputo se era vera. Quelle cose sono come i pogrom, si nascondono al mondo, poi un giorno si raccontano. Non c'era che da aspettare. Lui, Stepan, non c'era niente che lo obbligasse a fare il messaggero di malaugurio in una così bella sera d'estate in cui per una volta che i figlioli non c'erano potevano fare tutti insieme quello che non facevano mai quando erano a casa. Mangiare fuori, per esempio, in una birreria, fuori, al fresco, come dei turisti stranieri. Oppure nel bel chalet, ristorante davanti al laghetto, alle Buttes Chaumont, dove i Gutmann li avevano portati, lui e Sonia, quando Maurice era ancora nel passeggino e Zazà nel ventre di Olga. Ecco, quella sera potevano fare così e invece di rivangare il vecchio passato avrebbero evocato quello recente. Dopotutto, anche lo chalet delle Butte era già il passato, visto che Zazà aveva già 14 anni. Se ne poteva anche approfittare per parlare del suo avvenire, quello di Zazà. Quello di Maurice era già tracciato dal momento che gli piaceva la scuola, ma Zazà? Che farne di Zazà? Questo era molto più importante di tutti i cugini Valodia di Ucraina, di Polonia, di Germania o perfino di Palestina, come il cugino Stern. Zazà, lei era di qui. Bisognava pur che si decidesse a far qualcosa con le 10 dita o con la testa. Non era impiastricciandosi di rossetto e andando a pescare gamberetti che avrebbe preparato l'avvenire che l'attendeva.